Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Nel corso delle stesse giornate sono affiancate sulle pagine economiche dei giornali le vicende di due grandi banche, due delle più grandi nel nostro paese, che si stanno sviluppando in parallelo, pur andando a delineare per la verità situazioni completamente differenti e che hanno sollevato la curiosità e l'attenzione sia dei clienti di questi istituti che naturalmente degli azionisti, dei piccoli azionisti di queste banche. Da un lato abbiamo Monte dei Paschi che, per via delle rafforzamento patrimoniale richiesto dalle autorità europee, dall'EBA nella fattispecie, dovrebbe ricevere circa 2 miliardi di liquidità di sostegno dallo Stato, che si aggiungono al 1.900 milioni di euro di Tremonti Bond, appunto, già chiesti in passato. Dall'altra parte abbiamo UniCredit che, al contrario, vede invece consolidarsi nel proprio azionariato la componente straniera con il fondo Pamplona, russo, con sede a Londra ma con un nome in realtà spagnolo, insomma, quindi anche un mix abbastanza interessante, che arriva al 5% del capitale diventando il secondo azionista di Piazza Cordusi. Allora noi oggi cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa significano queste manovre, facciamo il punto della situazione raccontando le vicende di queste due grandi banche italiane. Con noi la nostra Valeria Novellini, analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore. Valeria, ciao, bentornata. Buona giornata. E grazie anche per il suo ritorno a Giulio Baresani Varini, responsabile Wealth Management presso Millennium SIM. Buongiorno e benvenuta anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, come sempre, microfoni aperti agli ascoltatori che possono chiamarci con le loro domande all'800 24 00 24. Potete scriverci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche scriverci sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Andate a curiosare sulla nostra pagina, ci sono sempre i resoconti delle puntate precedenti, le anticipazioni di quello che faremo nei prossimi giorni, insomma potete andare a dare il vostro contributo anche sulle social network. Giornata interessante in borsa oggi, tanto per cambiare abbiamo il segno meno su tutte le piazze, che nella attesa del vertice europeo di Bruxelles iniziato oggi, che si dovrebbe concludere domani, ma se Mario Monti non porta a casa un risultato ha già detto che farà fare tutto il weekend a Bruxelles a tutti i leader europei, e allora in attesa di questo super vertice che speriamo sia decisivo, non ci crediamo più di tanto, ma speriamo che si portino a casa delle soluzioni più concrete rispetto ai 24 vertici sulla crisi che si sono fatti nei mesi passati, che hanno portato a casa in realtà molta incertezza, soprattutto politica. Allora, nell'attesa di questo vertice, l'ennesimo sulla crisi, le borse oggi sono tutte in negativo, ed è negativa particolarmente Francoforte, perde l'1,73%, probabilmente la piazza tedesca sconta anche la delusione sul dato sulla disoccupazione che è stato diffuso questa mattina, giugno al 6,8%. Un dato che è sicuramente ben superiore alle attese e alle abitudini dell'attuale mercato del lavoro tedesco. Parigi segna meno 1,16, Londra in ribasso di un punto, Milano meno 0,8, però su Milano c'è stata una grande volatilità questa mattina. Il listino era partito in rialzo, se non mi ricordo male, poi ha bruciato tutto, è arrivato a perdere l'1,7-1,8%, poi c'è stata l'asta dei titoli di Stato, di cui adesso vi racconto i risultati, e adesso è a meno 0,8%. In ogni caso è un segnale di grande nervosismo quello che si sta manifestando in borsa questa mattina, non ci aspettavamo nulla di diverso, insomma il mercato anche in questa maniera sollecita l'attenzione dei politici europei e sta dicendo chiaramente loro: sbrigatevi ad adottare delle soluzioni per affrontare la crisi del debito. Sicuramente non porteremo a casa gli eurobond nei prossimi giorni, chissà se porteremo a casa una soluzione sul contenimento dello spread, come auspicato dal Premier Monti, che in cambio ha detto sarà disponibile a dare il suo appoggio sulla Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Poi lì ci sarà da litigare con Cameron, ma insomma chiaramente ognuno deve dare un contributo facendo magari anche qualche passo indietro. A Milano i peggiori titoli Ansaldo meno 5, Monte dei Paschi, ne parliamo oggi, meno 4%, Impregilo meno 4, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,5, Popolare di Milano meno 2,38, Ubibanca meno 2,31. Con il segno più abbiamo solo Diassorin e pochi altri che guadagnano molto meno. Diassorin fa più 3, UniCredit, ne parleremo oggi, più 0,32%, Azimut più 0,20%. Abbiamo terminato la lista dei titoli positivi.

si condiziona, parlando di Unicredit, ricordo che le fondazioni che in origine avevano quasi il 20-30%, oramai sono enormemente ridotte, fino quasi a scendere all'11-12%, quindi basta due o tre quote da 5-6% per poter condizionare almeno il consiglio d'amministrazione. C'è da dire che però i libici, per quanto abbiano avuto e abbiano quote piuttosto importanti, mi sembra di ricordare che la voce particolarmente grossa non l'abbiano mai fatta in nessuna circostanza, Baresani Varini, o no? Perché hanno avuto problemi in casa, loro. È indubbio che non può tutto il sistema bancario italiano quotato valere meno della brasiliana Unibanco, cioè ormai la capitalizzazione delle nostre banche è ai livelli minimi. Pensiamo solo che oggi sul Financial Times c'era scritto che forse la JP Morgan perde 9 miliardi di dollari per la questione dei derivati, sì. È come se si perdesse due terzi di Unicredit, insomma. Peraltro rispetto a Monte Paschi le situazioni sono diverse. Di fatto Monte Paschi è l'unica che viene aiutata proprio con quei Tremonti Bond che lo stesso Profumo, quando era in Unicredit, non ha voluto, ma lì poteva fare aumenti di capitale diluendo magari le fondazioni e trovandosi in giro per il mondo azionisti esteri. Al Paschi non è stato possibile perché la fondazione già ha fatto una rivoluzione copernicana scendendo sotto il 50,1, è scesa al 37,5, e anche quel potenziale aumento di capitale di 1 miliardo di euro che dovrà fare da qui al 2015 non potrà seguirlo, ma probabilmente sarà rivolto a qualche socio, amico o partner. Infatti, e vedremo di chi si tratterà prossimamente. Tra l'altro, sempre per dare un po' l'idea delle proporzioni, adesso io, mentre lei mi faceva questo ragionamento su quanto vale la capitalizzazione di borsa di tutte le banche italiane, mi sono ricordata che era stato diffuso un dato qualche tempo fa. Se non ricordo male, stiamo parlando di qualcosa come 39 miliardi di euro. È possibile complessivamente tanto quanto vale sulla piazza tedesca solo BMW? Ci possiamo essere con le proporzioni, Valeria? Può essere questa la cifra? Ci possiamo essere, e in effetti però confermo il fatto che al momento forse il settore bancario, anche viste le prospettive, al di là di un'eventuale permanenza o meno nell'euro, non credo sia quello più appetibile per eventuali scalate. Volevo ricordare, per quanto riguarda i libici in Unicredit, che proprio pochi giorni fa la Libyan Investment Authority, che ha l'1,8%, ha dichiarato comunque che intende far valere la sua partecipazione anche con un posto nel CDA, ed inoltre non esclude di poter ulteriormente aumentare la sua quota. Però attenzione, perché sì, è vero che ci sono tanti azionisti esteri che con tanti 5% si condiziona alla banca, sono però, almeno per ora, di diverse nazionalità e apparentemente almeno con interessi diversi. Bisogna vedere se si coagulasse un nocciolo più o meno duro con interessi simili. Non si può dire che non ci potrebbe essere un consiglio di amministrazione molto pittoresco e divertente comunque in piazza Cordusia. E ancora però un altro dato, sempre per dare il senso delle proporzioni della situazione delle banche delle quali stiamo parlando questa mattina in Italia: capitalizzazione di borsa per Monte dei Paschi in questo momento siamo su 2,5 miliardi. Il gruppo ha in pancia 25 miliardi di titoli di Stato italiani. Unicredit ne ha quasi 48, oltre i 50 quelli che ha Intesa San Paolo, per invece capitalizzazione di borsa che sono drasticamente, radicalmente inferiori. Questo solo per raccontarvi un po' come stanno le cose. Eccoci di nuovo insieme a Salva Danaio. Questa mattina siamo ritornati su due casi di borsa che hanno attirato non solo la nostra attenzione, ma naturalmente anche quella di tutti, in qualche maniera, diretti interessati, perché insomma molti degli ascoltatori che ci seguono sono a vario titolo o correntisti, clienti di Monte dei Paschi e Unicredit, o anche azionisti di queste due banche come di altre banche italiane. Allora, i movimenti che abbiamo visto negli ultimi giorni ci hanno attirato e li vogliamo un po' spiegare ai nostri ascoltatori. Quello più importante è stato quello relativo al fatto che ha fatto il suo ingresso abbastanza sonoro in Unicredit, questo fondo britannico ma riconducibile ad un manager russo che si chiama Pamplona, che è arrivato al 5%. Per la verità stava già salendo gradualmente, ma lo aveva fatto fino all'1,9%, che è quella soglia che non impone l'obbligo di comunicazione Consobe. Chiaramente, essendo arrivato invece al 5%, la notizia è stata divulgata e quindi abbiamo appreso che ci sono sempre più stranieri nel capitale di Piazza Cordusio. L'altra vicenda riguarda invece Monte dei Paschi. Il gruppo senese riceverà altri Tremonti Bond perché non riesce a soddisfare i requisiti di patrimonializzazione richiesti dall'EBA, l'autorità bancaria europea. Voleva farlo attraverso dismissioni ed altre operazioni. Alla fine, fatti due conti, mancavano all'appello ancora quasi 2 miliardi, per cui si fa ricorso ancora a questa sorta di prestito dello Stato. Poi vi spieghiamo come funziona. Per fortuna, quando c'è stato il varo di questo provvedimento che permetteva alle banche italiane che avessero necessità di capitale aggiuntivo di sottoscrivere i Tremonti Bond, Valeria Novellini, magari possiamo ricordarlo, non le banche italiane avevano quasi snobbato, per fortuna, questo strumento, solo un paio ne avevano fatto richiesta. Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, tutte e due per importi però inferiori a quello richiesto dal Monte dei Paschi, che è stata quella che ha richiesto la maggiore somma, assicurando fino a pochi mesi fa che sarebbe stata rimborsata a scadenza. Come vediamo, questo non è stato possibile, ma ricordiamo una cosa: i nuovi bond non saranno Tremonti Bond, ovviamente qualcuno li ha già ribattezzati Monti Bond, perché saranno nuovi titoli con caratteristiche che ancora non conosciamo, tendenzialmente simili a quelli... Praticamente funziona così: la banca emette questi titoli e li acquista lo Stato. Esatto. E lo Stato però gli dice: mi devi dare un tot di interesse. Ma... che è dell'8,5% per i Tremonti Bond, non è basso. E non è da escludersi che per i nuovi, tra virgolette, Monti Bond non sia ancora più alto. Questi bond inoltre ovviamente hanno una scadenza che per i Tremonti Bond era quadriennale. Chiaramente le banche erano libere di rimborsarli anche prima se potevano. E infatti adesso mi sembra che il Banco Popolare e la Popolare li hanno rimborsati tramite aumenti di capitale. Il Monte dei Paschi ha fatto un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo, non è stato sufficiente per rimborsare questi bond e neanche per raggiungere i requisiti patrimoniali. E di conseguenza adesso vedremo questi Monti Bond, tali sono, che tasso porteranno e come saranno rimborsati. Ma è vero che se la banca non eroga il dividendo può anche non riconoscere questo tasso chiesto dallo Stato? No, non è assolutamente vero, e in ogni caso il Monte dei Paschi ha annunciato che intende comunque continuare a erogare dividendi, ha detto dividendi di basso ammontare, probabilmente anche per sostenere le attività della fondazione, che rimarrà comunque il suo principale azionista e dovrebbe probabilmente scendere intorno al 26% del capitale dopo l'aumento di capitale. Però purtroppo no, la remunerazione ci deve essere, se non viene erogato il dividendo è per altri motivi, tra cui quello di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato. Andiamo a Paolo da Milano, poi girerò la domanda che ci vuole fare questo ascoltatore a Giulio Baresani Varini. Paolo, buongiorno. Buongiorno Debora, sono Paolo di Mercato Libero, saluto Giulio che conosco. Ah, ottimo. Noi ci conosciamo, Debora, ciao. Abbiamo fatto questa caramba, che sorpresa. Ahimè, mi sono occupato per 4 anni del Monte Paschi di Siena ed è una tristezza infinita vedere come viene trattato dai giornali, dai media, questo argomento, frutto di errori su errori da parte di un presidente dell'ABI che oggi si è tolto e ha lasciato le castagne a un profumo che ha fatto perdere alla Unicredito il 98% del suo valore. Sono molto seccato di vedere che non si parla di 400 filiali chiuse. Stavamo arrivando, Paolo. Che vuol dire 4 miliardi di perdita, 4 miliardi sulla base del valore che Muzza ricomprò Antum Veneta, 10 milioni a per era filiale. Era il nostro prossimo step, comunque senza grazie. Senza contare che ha venduto Biverbanca, dove ha venduto 122 sportelli a un valore medio di 2 milioni ieri, no? Il Monte Paschi. La cosa triste è vedere come questa... questa cosa passi inosservata dalla magistratura e dalla procura, dove sono stati fatti degli errori gravissimi e dove oggi 4 miliardi sono stati regalati, perché questo è un regalo, 9,5, 10,5, chi se ne frega. Il problema è che questa banca andava nazionalizzata, come ha fatto la Spagna con Bankia. Forse ci si domanda come mai non è stata nazionalizzata. Il motivo è facile: è vedere Passera dov'è e a che punto è e perché è amico di Mussari. E che cosa è successo nel rapporto intesa Montepaschi negli ultimi 5 anni, senza contare che Monti è comunque un figlio di banchieri. Io poi adesso mi fermo perché veramente ne ho le palle piene di questa situazione. Vi saluto, perché non avere il coraggio di dire queste cose in televisione, sui giornali, è veramente qualcosa che mi fa star male. Ma tutti a me, Paolo, allora sì, va bene, a parte tutta quanta, come dire, la deriva della seconda parte della sua riflessione sui rapporti, voglio dire, non è che questo governo non sia mai stato accusato di essere il governo dei banchieri, di proteggere le banche, di averle anche in qualche maniera protette da eventuali necessità di nazionalizzazione, per il fatto di essere espressione anche del mondo bancario. Non mi pare che sia proprio esattamente un'idea innovativa quella che lei ha, e una considerazione assolutamente originale. Detto questo, andiamo al nocciolo della questione. Allora, a prescindere dai rapporti tra Mussari, che oggi non guida più Monte dei Paschi, e Passera, gli amici dei banchieri o meno, mi chiedo, Giulio Baresani Varini, sarebbe stata un'idea migliore nazionalizzarla in altri tempi piuttosto che arrivare a questi queste misure di rafforzamento patrimoniale che comunque scongiurano la nazionalizzazione, che forse avrebbe fatto passare un messaggio molto diverso rispetto alla solidità del sistema bancario italiano. Lei come la vede? Diciamo che si è aspettati fino all'ultimo di vedere se lo spread si restringeva, e oggettivamente a metà marzo noi avevamo uno spread che era sceso notevolmente, il decennale era arrivato a 4,80 e il 2 anni sotto il 2, intorno al 2. Questo avrebbe permesso a quell'enorme quantità di titoli di Stato posseduti dal Monte Paschi, che quasi era stato trasformato in una sorta di hedge fund, cercando di recuperare su una quantità enorme di titoli di Stato italiani, tra l'altro con la duration, con la scadenza più lontana rispetto a tutti gli altri. Basta dire che ne ha la metà dell'Unicredito, che è molto più grande, ma l'Unicredito è quello che ha, come dire, le scadenze, le duration più corte, per cui banalmente li può anche portare a scadenza. Questo esplodere dello spread gli ha tolto capitale, no? Perché i margini, sappiamo perfettamente che dovendo valutare al mark to market, cioè alla valutazione di vendibilità, ti assorbe capitale, quindi o facevi un aumento di capitale, ma non è come è stato, non so, Banco Popolare di Milano o altre che sono riuscite sulla clientela minuta a raccoglierlo, oppure con l'arrivo di Bonomi ed altri azionisti che poi alla fine hanno preso, diciamo, la gestione della banca, oppure nel caso dell'Unicredito tutti gli aumenti di capitale che ha fatto Profumo. Di fatto oggi la banca vale solo 1 miliardo in più rispetto agli ultimi 3 aumenti di capitale, di cui l'ultimo da 7.500 miliardi. Sì, quindi, sì, quasi come se fossero operazioni così che quasi sembrano non essere state fatte, insomma, per quanto abbiano avuto un effetto relativo, insomma, sì. Secondo me è stato tutto sommato giusto usare questi 3 monti bond, perché una cosa che il governo italiano ha sempre potuto dire: guardate che il nostro sistema bancario è abbastanza in ordine, abbiamo adesso un deficit PIL basso, stiamo recuperando la bilancia commerciale, abbiamo il grande problema della non crescita e del grande debito. La Spagna è un altro mondo, perché lì comunque ne ha avuto bisogno di 50-60 miliardi, e le uniche due che vanno realmente bene, perché sono leader in Messico o in Brasile, nei paesi emergenti, parlo di Santander e di BBVA, ogni banca ha la sua. C'è stata la Dexia per i francesi, non parliamo degli inglesi che hanno dovuto fare di tutto, ma anche la stessa Commerz, ma anche in Germania qualche problema l'ha avuto. Il dramma di Montepaschi era che poi rispetto a Unicredito era enormemente locale, molto sui mutui, però adesso, diciamo, c'è stato un cambio di management, è stato assolutamente infausto, per quanto col senno del poi, ma la crisi già nell'estate del 2008 un po' si sentiva, perché era già saltata l'americana Buster. Comprarlo un mese e mezzo prima di Lehman è stata una pazzia. Adesso è ovvio che bisogna chiudere le filiali, ma questo perché è cambiato il modello di banca. Non vedi più le code nelle filiali, nessuno fa più un bonifico fisicamente. C'è anche da dire che i 4.600 posti di lavoro dei quali parlava l'ascoltatore arrabbiatissimo Paolo sono comunque unità che si riferiscono a Beaver Banca in parte, che viene ceduta, per cui non sono persone che vengono licenziate. Adesso non so bene quali altre strade verranno prese per le altre figure professionali, ma mi pare di aver capito che anche durante la presentazione del piano industriale ieri l'amministratore delegato Fabrizio Viola abbia detto che non ci saranno né licenziamenti né ricorso alla cassa integrazione, ma naturalmente solo posti che verranno in qualche maniera riassegnati, ricollocati e forse qualche prepensionamento. Baresani Varini. Mi torna difficile capire, perché sappiamo già che gli esodati sono in gran parte bancari, no? Infatti. E qualcuna banca sarebbe dovuta anche ritornare indietro. Esatto, quindi voglio capire, adesso che si va a 67 anni, un maschio in pensione anziché a 60, dove li mettono? Ricordo però che il Monte Paschi è sempre stata una delle banche più politicizzate, e se vogliamo dal punto di vista dipendenti per filiali, dipendenti di sede a colpi di senesità su cui spesso si è abusato, non è certo sempre stata quella che aveva poco personale. Quindi se abbiamo chiamato sia Profumo che Viola, secondo me due manager adeguati e un tandem equilibrato, è perché si dovesse fare un po', so che è un brutto termine da dire, polizia. Un po' di polizia. Quindi li hai voluti, li hai chiamati quando non ce la facevi più. È vero che il presidente dell'ABI ha lasciato un po' il cerino acceso a questi due manager. Tutti stanno chiudendo le filiali, è stato un cambio epocale. Si compravano 8-10 milioni le filiali nel 2007, ma Unicredito aveva nel 2007 un ROE del 17%, adesso i ritorni sul capitale, sull'equity sono del 2-3%, ed è il problema per cui le banche non le vuole nessuno, anche se per tutto c'è un prezzo, e secondo me a questi livelli, molto più su Unicredito che sul Paschi, c'è interesse. Quindi da depositante e da cliente sono sicuro sulle banche italiane. L'unica che era un po' a disagio è stata, aiutata per non andare direttamente sul mercato in attesa di tempi migliori. Come investitore invece azionario ritengo che l'Unicredito sia in assoluto la migliore, perché ha anche la sfortuna di essere quotata in Italia, di avere titoli di Stato italiani ma meno di altri, più corti, ma di fare il proprio business molto all'estero, dalla Germania all'est europeo. Se no magari sarebbe stato proprio forse questo anche il motivo per cui Deutsche Bank si è prestata anche ad aiutare il fondo Pamplona a salire al 5%. Allora, a proposito di azionisti, poi vado anche a Giorgio Davarese, a cui chiedo un minutino di pazienza, ha un altro prodotto in portafoglio di Monte dei Paschi e abbiamo informazioni anche su questo. Giorgio, mi dia solo un attimo, perché però siccome abbiamo evocato il ruolo dei piccoli azionisti e le loro preoccupazioni, adesso un commento su questo Giulio Baresani Varini l'ha fatto, volevo sentire Joseph dalla provincia di Novara, che saluto. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Vuole chiederla, sono come azionista, abbiamo Unicredit e Monte Paschi di Siena, sono 10.000 azioni di Monte Paschi. Ho visto la prima banca che ha chiesto l'aiuto dello Stato, dopo mi sa che chiede l'aumento di capitali. Cosa vado contro? Ho visto che l'ho pagato 1,25 euro. Allora, le prospettive dei titoli, anche qui magari diamo due indicazioni. Allora, chiaramente qua ci vuole una sfera di cristallo, bisognerebbe capire quanto prosegue ancora questa crisi, quanto ancora le banche dovranno sopportare il peso dei molti investimenti in titoli di Stato italiani che hanno fatto, e quindi ogni volta riconteggiare il capitale sulla base del valore di mercato delle obbligazioni governative. Do solo qualche cifra: il massimo di Unicredit che in tempi recenti abbiamo raggiunto è stato il 26 aprile del 2007, era 42,85 euro, ma poi c'è stato, Valeria, in realtà era 4,28 euro, sì. Poi c'è stato l'accorpamento a 10 titoli appunto, esatto, per ogni azione, per cui in realtà era 4,28 rispetto a quello che esprime oggi, che adesso vado a rivedere, 2,53 euro. quindi più della metà praticamente. Ha perso, ma tutto sommato credo che abbia raggiunto anche livelli inferiori Unicredit. Sicuramente, non sono questi minimi. Per quello che riguarda Monte dei Paschi, massimo raggiunto sempre nel 2007, primavera 2007, 18 maggio 2007 a 3,57 euro, oggi il titolo di Rocca Salimbeni vale 18 centesimi. Allora, chi vuole cominciare con un commento sui titoli? Valeria. Per quanto riguarda il piccolo azionista, di Unicredit al momento non si può altro che sperare negli ulteriori sviluppi, che questi derivano da azionariato estero o meno, e comunque una stabilizzazione della situazione bancaria. Per il Monte dei Paschi vorrei ricordare che l'aumento di capitale da 1 miliardo che è stato annunciato, innanzitutto non avrà luogo subito, ma sicuramente dopo il 2013, come ha detto il management. C'è un'assemblea che è chiamata ad esprimersi ad inizio ottobre su questo. Certo, dopo, in occasione della presentazione dei dati semestrali. Ma poi la cosa principale è che questo sarà un aumento senza diritto di opzione, e quindi gli non attuali... Non saranno i piccoli azionisti. Ma, e neanche la fondazione, né piccoli né grandi, comunque questo sarà un aumento senza diritto di opzione, quindi non vi parteciperanno gli attuali azionisti, e la cosa è voluta proprio perché si intende fare entrare dei nuovi azionisti che tendenzialmente costituiscano comunque un azionariato stabile. Giulio Baresani Varini, un suo commento, insomma una visibilità di medio breve termine sull'andamento dei titoli. Possono scendere ulteriormente Monte dei Paschi? Può andare ancora più in giù di così secondo lei? Dipende molto anche da cosa succede in Europa. Personalmente spero che si arrivi a ottenere una sorta di gancio riduci spread e una sorta di roadmap, cioè di piano di medio-lungo termine, magari che parli anche di questo redemption bond, cioè quelli oltre il 60% di ogni singolo Stato. Comunque se questo non dovesse avvenire, un po' di turbolenza ci sarà, però se già investiamo in un paese sfortunato e con poca visibilità con l'Italia, se già compriamo banche, che è il settore più sfortunato, io starei almeno su quelle che sono molto orientate all'estero e ben capitalizzate. Quindi, mentre a livello personale ho delle Unicredit, non ho delle Paschi. E anche ieri, per esempio, ho provato a mediarle al ribasso le Unicredit intorno a 2,44, per essere più concreto, perché ritengo che possa essere uno dei titoli più reattivi e più interessati, come dire, anche a uno straniero che dovesse vedere nell'Italia un posto dove è completamente assente magari da tempo e dove cominciare a fare delle scommesse. Non penso che prenderebbe Monte Paschi, anche se in primavera qualcuno aveva iniziato a intravedere con l'arrivo di Profumo la nuova storia di ristrutturazione, come fu Banca di Roma, Capitalia ai tempi di Arpe. Perché? Perché i tempi sono radicalmente diversi, perché il controllo, come dire, politico e di Siena è molto più stringente, anche se il piano è abbastanza ambizioso, perché una restringimento dei costi di 600 milioni che comporta un rischio di esecuzione, cioè di riuscire a portare a casa tutti questi risultati, questa riduzione della leva, perché insomma comunque una banca che deve fare la banca che presta i soldi, richiede in prestito allo Stato, non è proprio un'immagine fantastica. Di buono c'è lo scenario realistico sui ricavi, cioè i ricavi sono previsti a -1, mentre nei deliranti piani che si vedevano dei banchieri nel 2007-2008, si pensi a quello di fusione Intesa San Paolo, a quello di fusione della scellerata, col senno del poi, acquisizione di capitale da parte Unicredit, i ricavi crescevano sempre, i costi scendevano, ecco perché erano delle macchine da soldi. Adesso non è più così, l'utile previsto è di 550 milioni nel 2015, che vuol dire nel 2015 un 8 volte gli utili, considerato che un aumento di capitale di 1 miliardo su una banca che ne vale 2, è vero che non chiedi all'attuale azionista di tirar fuori altri soldi, visto che le sue posizioni sono già sanguinolente, però comunque nuove azioni diluiscono l'utile futuro, cioè l'utile futuro si conteggerà almeno su un terzo di azioni di più. Quindi vuol dire che a 8 volte gli utili nel 2015, secondo me, è relativamente interessante, mentre appunto Unicredit, Intesa, queste qui sono già a prezzi utili stimati più bassi. È molto più probabile un ritorno del dividendo, per esempio, di Unicredit già il prossimo anno. e ritorno a dire che è la seconda banca in Germania, la prima in Austria, la prima in Polonia, la seconda. Tra l'altro, questa cosa del ritorno all' UniCredit, insomma, una speranza nella quale confideranno probabilmente anche questi nuovi azionisti stranieri che si sono presentati. Tra l'altro, in 30 secondi, Valeria, perché poi vorrei dare anche la parola a due amici che ci seguono da casa. Questi signori di Pamplona, chi sono? Questi signori di Pamplona sono un fondo di nazionalità britannica, che però fa capo a un oligarca russo, attenzione, anche qui russo di origine ma di nazionalità americana, statunitense, infatti, sì, che però politicamente è molto vicino al presidente Putin. Ecco, al di là di questo, diciamo che questo fondo non è nuovo a operazioni in Italia e per esempio si era candidato a rilevare RIAG, una società che aveva tentato di quotarsi qualche tempo fa e che poi invece, avendo avuto offerte da fondi di private equity, tra cui questo, ma non è lei che l'ha rilevato, ha deciso di non quotarsi più. Quindi diciamo che questo fondo ha già mostrato interesse per l'ingresso in Italia, anche se finora non in operazioni bancarie. Questo fondo gestisce 6,5 miliardi di dollari per conto di fondi pensione e fondi hedge. E quindi insomma guarda con interesse il nostro paese. Rapidamente, Giorgio da Varese, buongiorno. Buongiorno signora. Rapidissimo che abbiamo la risposta, sì, per lei. Se avete notizie di quell'obbligazione che ha emesso a suo tempo Montepaschi, Dio le maledisca, che è subordinato, cioè se verranno pagati ancora gli interessi o seppure andranno a farsi benedire, friggere. Giorgio, no, non credo, io credo che sia prodotti di risparmio. Allora, poi un ascoltatore ci scrive, ma Monte dei Paschi bloccherà l'erogazione dei mutui? Io credo che sia bloccatissima da tempo la banca, così come UniCredit, non sono molto generosa, a meno che non si vada in banca con un elevatissimo livello di garanzie. L'erogazione dei mutui è altro tema, non ne fanno, ma l'importante insomma che questa è una scelta commerciale, ma non ha nulla a che fare con appunto le questioni di cui parliamo questa mattina. Beh, anche però non completamente. Giorgio da Varese ci chiede questo bond subordinato, che cos'è intanto, Valeria? Rapidissima. E allora ce ne sono tanti perché il Monte dei Paschi ha emesso parecchie serie di titoli subordinati. Innanzitutto, tranquilli, non c'è nessun rischio sicuramente che non vengano pagate le cedole, questa è la prima cosa. In seconda cosa, proprio ieri però, per 9 serie di questi titoli subordinati, bisognerebbe vedere se quello dell'ascoltatore rientra in questi, è stato proposto uno scambio tra questi titoli ed un altro titolo, nuovi titoli che saranno sempre denominati in euro, che avranno tasso fisso e scadenza triennale. Qui però, anche qui per la convenienza, bisogna vedere quale è di questi titoli subordinati, se vi rientra e qual è la cedola attualmente in corso di questo titolo. Solo così si può vedere se è conveniente lo scambio. Se non intende comunque scambiarli, per quanto riguarda il pagamento delle cedole, al momento non deve avere nessuna preoccupazione. No, tra l'altro, Giorgio, comunque, qualora la banca fosse uno dei bond oggetto di questa eventuale conversione, la banca comunque lo chiamerà e gli dirà: guarda, c'è questa, perché lui deve dare il suo consenso, immagino l'operazione, naturalmente, non lo fate senza consenso. Allora, noi abbiamo terminato, c'era anche l'intervento di Bruno da Salerno che voleva ritornare sul tema del quale ci siamo occupati a Salva Danaghi, il famoso raggruppamento di azioni di UniCredit delle quali parlavamo prima. Lui dice è stata una truffa legalizzata. Bruno, non abbiamo tempo di analizzare il suo commento, magari ci ritorneremo più avanti, però ci scriva se vuole e faremo commentare la sua riflessione alla nostra Valeria o a Giulio Baresani Varini. Andiamo alle pillole IMSS, restiamo sul tema della gestione separata. Oggi parliamo del metodo per calcolare le pensioni in questi casi. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con IMSS. Con quale metodo sono calcolate le pensioni previste dalla gestione separata? Le varie prestazioni previste per gli iscritti alla gestione separata sono calcolate interamente con il metodo contributivo, basato sui contributi versati e sull'età al momento del pensionamento. Si applica interamente il sistema contributivo perché tutte le iscrizioni alla gestione separata sono successive al 1996. Naturalmente, essendo il contributo inferiore a quello per il lavoro dipendente e trattandosi di lavoro spesso discontinuo, è facile ipotizzare che l'ammontare del trattamento non sarà particolarmente elevato. Ma l'aumento delle aliquote previsto dalla riforma dovrebbe favorire un maggior importo dei trattamenti. Continueremo a vigilare su queste vicende con naturalmente la nostra trasmissione con Salva Danaio. Intanto grazie a Giulio Baresani Varini che ha già salutato i nostri ascoltatori e grazie anche alla nostra Valeria Novellini. Valeria, presto. Salve. Noi ci fermiamo qui, grazie a Matteo Comes per la collaborazione agli studi tecnici, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Noi torniamo dunque domani e venerdì, sì, torniamo anche domani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani.